terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Mia madre riprese ad andare alle carceri con la biancheria e là si incontrava con i genitori di Vittorio e con altri parenti di detenuti. Gente così per bene, diceva dei genitori di Vittorio, una famiglia così per bene. E hanno detto che quel Vittorio è tanto un bravo ragazzo. Aveva appena dato benissimo gli esami di procuratore. Alberto si è sempre scelto degli amici molto per bene. E anche Carlo Levi è dentro, diceva con una mescolanza di paura, d'allegria e di orgoglio, perché la spaventava il fatto che fossero dentro in tanti e che si preparasse magari un grande processo, ma l'idea che fossero dentro in tanti anche la confortava. Ed era lusingata che Alberto si trovasse in compagnia di gente adulta, per bene e famosa. E dentro anche il professor Giua. «Però i quadri di Carlo Levi non mi piacciono», diceva subito mio padre, che non perdeva mai un'occasione per dichiarare che i quadri di Carlo Levi non gli piacevano. «Ma no, Beppino, invece, sono belli», diceva mia madre. «Il ritratto della sua mamma è bello, tu non l'hai visto». «Sbrodighezzi», diceva mio padre, «non posso soffrire la pittura moderna». «Oh, ma Giua lo metteranno fuori subito», disse mio padre. «Non è compromesso». Mio padre non capiva mai quali erano i cospiratori veri, perché infatti dopo qualche giorno si sentì dire che in casa dei Giua avevano trovato lettere scritte con l'inchiostro simpatico e Giua era, fra tutti, quello più in pericolo. «Con l'inchiostro simpatico», disse mio padre. «Eh già, lui è un chimico. Sa come si fa l'inchiostro simpatico». Ed era profondamente stupito e forse anche vagamente invidioso, perché quel Giua, che usava incontrare in casa della Paola Carrara, gli era sempre apparso come una persona posata, tranquilla e riflessiva. Ora Giua saliva ad un tratto al centro di quella vicenda politica. Dicevano che anche Vittorio si trovava in una posizione estremamente pericolosa. «Voci», disse mio padre, «tutte voci, nessuno sa niente». Erano stati arrestati anche Giulio Einaudi e Pavese, persone che mio padre conosceva poco o conosceva soltanto di nome. Si sentiva però anche lui, come mia madre, lusingato che Alberto fosse tra loro, perché trovandolo mescolato a quel gruppo di cui sapeva che facevano una rivista chiamata La Cultura, gli sembrava che Alberto improvvisamente fosse entrato a far parte di una società più degna. «L'hanno messo dentro con quelli della cultura? Lui, che legge soltanto le grandi firme?» diceva mio padre. «Doveva dare l'esame di biologia comparata, adesso non lo darà mai più, non si laurea più», diceva mia madre nella notte. Poi Alberto, Vittorio e gli altri furono mandati a Roma, ammanettati con la tradotta. Li portarono nelle carceri di Regina Coeli. Mia madre aveva ricominciato ad andare in questura, dal Finucci e dal Lutri. Ma il Finucci e il Lutri dicevano che ormai la cosa era passata alla questura di Roma e che loro non sapevano nulla. Adriano aveva saputo da quel suo informatore che tutte le telefonate tra Alberto e Vittorio erano state registrate, una per una. Vittorio e Alberto, infatti, si telefonavano di continuo nei rari intervalli che non erano insieme a spasso sul corso. «Quelle telefonate così stupide», diceva mia madre, «registrarle una per una». Mia madre non sapeva cosa si dicessero in quelle telefonate, perché Alberto, quando era al telefono, parlava sussurrando. Tuttavia mia madre era persuasa che parlasse sempre di sciocchezze, e così anche mio padre. «Alberto è un personaggio così futile», diceva mio padre. «Metterlo dentro, lui, che è la futilità in persona!» Si ricominciò a parlare del dottor Veratti e di Margherita. Mio padre, però, Margherita, non voleva sentirla nominare. «Figurati se vado da Margherita! Non ci vado! Non mi sogno neanche!» Questa Margherita aveva scritto anni prima una biografia di Mussolini. E a mio padre il fatto che ci fosse tra le sue cugine una biografa di Mussolini sembrava inaudito. «Magari non vuol nemmeno ricevermi. Figurati se vado da Margherita a mendicar piaceri!» Mio padre andò a Roma in questura per sentire notizie e, mancando assolutamente di ogni senso di diplomazia e tuonando sempre con la sua voce forte e profonda, non credo riuscisse a ottenere gran cosa né quanto a colloqui né quanto a informazioni. Era stato ricevuto da uno che gli aveva detto di chiamarsi De Stefani, E mio padre, che sbagliava sempre i nomi, parlandone poi con mia madre, lo chiamava Di Stefano. Le descrisse com'era fatto questo Di Stefano. Mia madre disse: «Ma quello non è De Stefani, Beppino, quello è Anchise. Ci sono stata anch'io l'anno scorso». «Ma che Anchise? Mi ha detto di chiamarsi Di Stefano. Non può avermi dato generalità false». Su Di Stefano e Anchise, ogni volta mio padre e mia madre litigavano. E mio padre continuò a chiamarlo Di Stefano, benché fosse, senza nessun dubbio possibile a quanto diceva mia madre, Anchise. Alberto, da Roma, scriveva che gli dispiaceva di non poter visitare la città. Difatti lui Roma l'aveva visto solo per mezz'ora all'età di 3 anni. Una volta scrisse che si era lavati i capelli col latte e dopo i suoi capelli puzzavano e tutta la cella puzzava. Il direttore delle carceri fermò quella lettera e gli fece sapere che scrivesse nelle sue lettere meno sciocchezze. Alberto fu mandato al confino in un paese chiamato Ferrandina, in Lucania. Quanto a Giua e a Vittorio, furono processati e presero 15 anni per uno. Mio padre diceva: «Se Mario tornasse in Italia, si prenderebbe 15 anni, 20 anni!» Mario ora scriveva da Parigi, nella sua calligrafia minuscola e illeggibile, lettere brevi e concise che i miei genitori stentavano a decifrare. Andarono a trovarlo. Mario viveva a Parigi in una soffitta. Indossava ancora quei panni che portava quando si era buttato nell'acqua a Ponte Tresa, ed erano stinti e frusti. Mia madre voleva che si comprasse un vestito, ma lui rifiutò di lasciare quegli abiti stinti. Chiese subito notizie di Sion Segre e di Ginsburg, che erano ancora in carcere, e di Ginsburg parlava con stima, e tuttavia come di persona lontana, che il suo pensiero e il suo affetto non avevano abbandonato, ma avevano tuttavia un poco lasciato in disparte. E quanto alla sua propria avventura e fuga, sembrava averle dimenticate del tutto. Si faceva da sé il bucato. Non aveva che 2 camicie logore e le lavava con grande cura, con l'attenzione meticolosa che usava un tempo nel maneggiare e riporre dentro i cassetti la sua biancheria di seta. Spazzava da sé la sua soffitta con meticolosa attenzione. Era sempre ben lavato, ben sbarbato, lindo, anche nei suoi panni logori. E sembrava più che mai, disse mia madre, un cinese. Aveva un gatto. C'era nella soffitta in un angolo la cassettina con la segatura. Era un gatto molto pulito, disse Mario. Non faceva mai la cacca per terra. Aveva, disse mio padre, una fissazione con quel gatto. Si alzava presto al mattino per andare a comprargli il latte. Mio padre, come mia nonna, non poteva soffrire i gatti. E anche mia madre non amava molto i gatti, preferiva i cani. Disse mia madre: «Perché invece non ti tieni un cane?» «Ma che cane?» urlò mio padre. «Ci mancherebbe altro che tenessi un cane!» Mario, a Parigi, aveva rotto con i gruppi di Giustizia e Libertà. Li aveva frequentati per un periodo e collaborava al loro giornale, ma poi aveva visto che non gli piacevano tanto. Mario era quello che, da piccolo, aveva fatto la poesia sui ragazzi tosi, con i quali non gli piaceva giocare. E quando arrivano i ragazzi tosi, tutti antipatici, tutti noiosi. Ora, per lui, i ragazzi tosi erano i gruppi di Giustizia e Libertà. Tutto quello che dicevano, pensavano e scrivevano lo indispettiva. Non faceva che criticarli e diceva che tra i lazzi sorbi non si convien maturi il dolce fico. Il dolce fico era lui e i lazzi sorbi erano quelli di Giustizia e Libertà. «È proprio vero», diceva, «è proprio così, che tra i lazzi sorbi non si convien maturi il dolce fico». Lo diceva ridendo e carezzandosi le mascelle così come un tempo diceva il baco del calo del malo. S'era messo a leggere Dante, aveva scoperto che era bellissimo. S'era messo anche a studiare il greco e a leggere Erodoto e Omero. Invece non poteva soffrire Pascoli né Carducci. Carducci poi lo mandava in bestia. «Era monarchico», diceva. «Era prima repubblicano e poi è diventato monarchico, perché si è innamorato di quella scema della regina Margherita». «E pensare che è dello stesso tempo di Baudelaire, dello stesso secolo! Leopardi, sì, era un grande poeta. I soli poeti moderni sono Leopardi e Baudelaire. È ridicolo che nelle scuole italiane si studi ancora Carducci». Andarono mio padre e mia madre a vedere il Louvre. Mario chiese se avevano visto Poussin. Poussin loro non l'avevano guardato. Avevano guardato tante altre cose. «Come?» disse Mario. «Non avete visto Poussin? Allora era inutile andare al Louvre. L'unica cosa che vale la pena di vedere al Louvre è Poussin». «Io questo Poussin è la prima volta che ne sento parlare», disse mia madre. Mario aveva fatto amicizia a Parigi con un certo Cafi. Non parlava che di lui. «Nuovo astro che sorge», disse mio padre. Cafi era mezzo russo e mezzo italiano, emigrato a Parigi da molti anni, poverissimo e senza salute. Cafi aveva riempito fiumi di fogli e li dava da leggere agli amici, ma non si curava di farli stampare. Diceva che quando uno ha scritto una cosa, non occorre stamparla. Averla scritta e leggerla agli amici, basta. Non c'è nessun bisogno che resti per i posteri, perché i posteri non contano nulla. Cosa ci fosse scritto su quei fogli, Mario non lo spiegava bene. Tutto c'era scritto, tutto. Cafi non mangiava, viveva di niente, viveva di un mandarino e i suoi vestiti erano tutti a pezzi, le scarpe sfondate. Se aveva un po' di denaro, comprava allora cibi raffinati e champagne. «Che intollerante quel Mario», diceva poi mio padre a mia madre. «Critica tutti, non gli va bene nessuno, solo questo Cafi». «Sembra che abbia scoperto lui che Carducci è noioso. Io lo sapevo da un pezzo», disse mia madre. Poi erano offesi mio padre e mia madre dal fatto che Mario sembrasse non aver nessuna nostalgia dell'Italia. Era innamorato della Francia e di Parigi. Mischiava al suo parlare continuamente parole francesi. Dell'Italia parlava incurvando le labbra con profondo disprezzo. Mio padre e mia madre non erano mai stati nazionalisti, odiavano, anzi, il nazionalismo in tutte le sue forme, ma quel disprezzo dell'Italia sembrava comprendere loro e tutti noi, e le nostre abitudini, tutta la nostra vita. Poi a mio padre dispiaceva che Mario avesse rotto i rapporti con i gruppi di Giustizia e Libertà. Il capo dei gruppi di Giustizia e Libertà era Carlo Rosselli, e Rosselli, quando Mario era arrivato a Parigi, gli aveva dato del denaro e l'aveva ospitato. Mio padre e mia madre conoscevano i Rosselli da molti anni ed erano amici della madre, la signora Amelia, che stava a Firenze. «Guai a te se fai qualche sgarbo a Rosselli», disse a Mario mio padre. Mario aveva, oltre a Cafi, due altri amici. Uno era Renzo Giua, il figlio di quel Giua che era in carcere. Un ragazzo pallido, con gli occhi accesi, col ciuffo sulla fronte, che era scappato dall'Italia da solo attraversando le montagne. L'altro era Chiaromonte, che mia madre aveva conosciuto anni prima in casa della Paola d'estate a Forte dei Marmi. Chiaromonte era grosso, tarchiato, con i riccioli neri. Tutti e due questi amici di Mario erano in rotta con Giustizia e Libertà, e tutti e due erano amici di Cafi, e passavano le giornate ad ascoltarlo quando leggeva quei suoi fogli scritti a matita e che non sarebbero mai diventati dei libri, perché lui i libri stampati li disprezzava. Chiaromonte aveva una moglie molto malata ed era molto povero. Tuttavia aiutava Cafi quando poteva. Anche Mario lo aiutava. Vivevano così, in stretta amicizia, dividendosi il poco che avevano e senza appoggiarsi a nessun gruppo, senza fare progetti per il futuro, perché non c'era nessun futuro possibile. Probabilmente sarebbe scoppiata la guerra e l'avrebbero vinta gli stupidi, perché gli stupidi, Mario diceva, vincevano sempre. «Quel Cafi», disse mio padre a mia madre, «deve essere un anarchico. Anche Mario è un anarchico in fondo, è sempre stato un anarchico». Dopo Parigi andarono mio padre e mia madre a Bruxelles, dove c'era un congresso di biologia. Là trovarono Terni e altri amici di mio padre e suoi allievi e assistenti, e mio padre si sentì sollevato perché la compagnia di Mario lo stancava. «Da sempre torto», diceva di Mario. «Appena apro bocca mi dà torto». A mio padre piaceva molto fare quei viaggi, ogni tanto, quando c'erano congressi, e gli piaceva ritrovarsi coi biologi, discutere grattandosi la testa e la schiena, tirarsi dietro mia madre in gran furia e senza mai permetterle di fermarsi nelle gallerie e nei musei. Gli piaceva anche soggiornare negli alberghi. Soltanto lui si svegliava sempre molto presto al mattino ed era, svegliandosi, sempre affamato. Finché non aveva fatto colazione, era di un umore feroce. Girava agitato per la stanza guardando fuori, spiando le prime luci dell'alba. Quando erano finalmente le 5, si attaccava al telefono e ordinava, urlando, la colazione. De thé complète, avec de l'eau chaude. Si scordavano in genere di portargli l'eau chaude o di portargli la marmellata, essendo i camerieri a quell'ora ancora assonnati. Finalmente, quando aveva ottenuto tutto, divorava la sua colazione, marmellata e brioche, e poi faceva alzare mia madre. «Lidia, andiamo, è tardi, andiamo a visitare la città!» «Che asino quel Mario!» diceva ogni tanto. «È sempre stato un asino, è sempre stato un intollerante. Mi dispiace se fa qualche sgarbo a Orselli». «Sempre con quel Cafi, Cafi, Cafi!» diceva mia madre quando erano di nuovo a casa e raccontando di Mario alla Paola e a me. Diceva «con Cafi» come un tempo diceva «con Paietta», lagnandosi di Alberto. E chiedeva alla Paola di Poussin. «Ma è davvero tanto bello questo Poussin!» Thank you. Anche la Paola andò a trovare Mario. Litigarono e non si piacevano più. Non facevano più ora insieme il gioco dei minerali e dei vegetali. Non erano più d'accordo su niente. Su ogni cosa avevano un'opinione diversa. La Paola, a Parigi, si comprò un vestito. Mario l'aveva sempre trovata elegante, aveva sempre lodato i suoi vestiti, il suo gusto. E tra loro due era in genere la Paola a dar giudizi e Mario a darle ragione. Quel vestito che la Paola comperò a Parigi a Mario non piacque. Le disse che sembrava con quel vestito la moglie di un prefetto. La Paola restò molto offesa. Anche Chiaromonte, col quale usava incontrarsi in passato, in villeggiatura al mare a Forte dei Marmi, adesso non le andava più. Non riconosceva quel Chiaromonte che un tempo usava venire a farle visita al mare, remare, nuotare, corteggiare le sue amiche, scherzare su tutto, andare la sera a ballare alla capannina, in quel nuovo personaggio di emigrato politico, senza denari, con la moglie così malata e tanto amico di Cafi. Mario le disse che lei era una borghese. «Sì, sono una borghese», disse la Paola, «e non me ne importa niente». Andò a vedere la tomba di Proust. Lui, Mario, non c'era mai andato. «Non gliene importa più niente di Proust», raccontò poi la Paola a mia madre al suo ritorno. «Non se ne ricorda nemmeno, non gli piace più. Gli piace solo Erodoto». Aveva comperato a Mario un bellissimo impermeabile, vedendolo che era senza, e Mario immediatamente l'aveva regalato a Cafi perché diceva che non poteva Cafi bagnarsi quando pioveva essendo malato di cuore. «Cafi, Cafi, Cafi!» diceva anche la Paola disgustata, ed era d'accordo con mio padre che Mario aveva fatto malissimo ad allontanarsi dal gruppo di Rosselli e diceva che erano Mario e Chiaromonte a Parigi due isolati e senza più nessun rapporto con la realtà. Alberto era tornato dal confino, aveva preso la laurea e si era sposato. Contro ogni previsione di mio padre, diventò un medico e si mise a curare la gente. Aveva ora uno studio. Si arrabbiava con Miranda, sua moglie, se lo studio non era in ordine e se c'erano giornali in giro. Si arrabbiava se non c'erano portacenere, perché lui fumava sempre una sigaretta dietro l'altra e ora non buttava più le cicche per terra. Venivano i malati e lui li esaminava e intanto gli raccontavano i fatti loro. Lui stava a sentire perché amava i fatti della gente. Poi andava in camice bianco e con lo stetoscopio penzolante al collo nella stanza vicina. Là c'era Miranda, buttata su un divano con la borsa dell'acqua calda e ravviluppata in un plaid perché era molto freddolosa e pigra. Lui si faceva fare un caffè. Era sempre irrequieto, come era stato da ragazzo, e beveva continuamente dei caffè. Fumava continuamente, a sorsate, senza aspirare, sempre come se bevesse la sigaretta. Venivano amici a vederlo e lui gli misurava la pressione e gli regalava campioni di medicinali. Trovava in tutti malattie. Solo in sua moglie non ne trovava nessuna. Lei gli diceva: «Dammi un ricostituente, devo essere malata, ho sempre mal di testa, mi sento stanca». E lui allora diceva: «Non sei malata, soltanto sei fatta di un materiale di seconda qualità». Miranda era piccola, magra e bionda con gli occhi celesti. Usava stare molte ore in casa con una vestaglia di Alberto e ravviluppata nel plaid. Diceva: «Quasi quasi vado a Ospedaletti, da Elena». Sognava sempre di partire per Ospedaletti, dove Elena, sua sorella, passava i mesi invernali. Sua sorella, bionda e simile a lei, ma un poco più energica, era in quel momento a Ospedaletti, al sole, su una sdraia, con gli occhiali neri e con un plaid sulle gambe. O forse giocava a bridge. Erano Miranda e sua sorella bravissime a giocare a bridge. Avevano vinto dei tornei. Miranda aveva la casa piena di portacenere che aveva vinto in quei tornei. Miranda, quando giocava a bridge, si scuoteva dal suo torpore. Faceva una faccia maliziosa e ilare, chinando sulle carte il piccolo naso ricurvo e le brillavano gli occhi. Tuttavia raramente riusciva a separarsi dalla sua poltrona e dal plaid. Verso sera si alzava, andava in cucina e guardava dentro una pentola dove c'era a cuocere un pollo. Alberto diceva: «Ma perché in questa casa si mangia sempre pollo lesso?» Alberto, anche lui giocava a bridge, soltanto lui perdeva sempre.